Chi? Oh no, l'ha svelato. A tu? Sì. Tosi e Pasquini sono la stessa persona. Aspetta, che qua mi ci vuole sempre. Chiedete a Rai, lui ve lo confermerà. Raio. Io non posso dire niente. Non confermo né smentisco. Va bene, intanto però, visto che abbiamo 47 al telefono, potremmo subito partire svelando quello che è il concept di questa puntata, della prima parte del Coxo. Per la prima volta al Coxo Spaziale, la rassegna stampa coxica, dove le notizie non sono successe oggi, ma parlano di estetica contemporanea. Hai capito? Non ho capito. Ma capirai durante la puntata? Probabilmente no, perché l'isola. Ma sta isola? L'isola del numero 47, Boscaro. È una serie TV. Lei negli anni 70 non guardava la televisione? Oh no. È peccato. Ma tu negli anni 70 non eri ancora nato. Io già guardavo la TV, però, pensa. Vedi, è sempre avanti W. Tosi, è sempre avanti. È sempre avanti. Bene. Allora, caro 47, ci vuoi raccontare qualcosa in particolare oppure ti salutiamo bellamente? Siamo dunque lontani, addirittura agli antipodi di quel decorativismo eccentrico che le riviste di fine Ottocento usavano come strumento di persuasione. Questo volevo dire alla radio, visto che avevo la possibilità di parlare alla radio e volevo dire questa cosa alla radio. Io quasi quasi lo chiamerei ad ogni puntata a questo punto, se ci snocciola queste pillole di meraviglia. Credo critica. Credo che per questa sera il Coxo Spaziale potrebbe finire qua addirittura. va bene, allora cosa facciamo 47? Ti scritturiamo però anche per le prossime puntate? Proviamoci. Beh, intanto posso dire 333 180 94 94 che finalmente è tornato un telefono che è in grado è il mio numero di cellulare, perché lo dici in pubblico. Anche il tuo e anche quello di Radio Città Fugico. Che meraviglia. Perché siamo la stessa persona. è ovvio. Ma caro 47, sono contentissima di averti avuto in trasmissione e magari ti richiamo alla fine, così ci dai anche dei preziosi consigli rispetto all'iter e al percorso che affronteremo in questa 125esima puntata del Coxo. Suona lunghissima. Vado a dormire. No, vabbè, dura come al solito sti 50 minuti tolta la pubblicità e intanto noi lo mettiamo adesso o dopo alla fine il brano? Adesso dopo. Ma mettiamolo subitissimo. Subitissimo, partiamo con questa, sì, con questa grande. Io non avrei mai voluto mettere un suo brano per celebrare questo momento. Ma sì, mettiamolo neanch'io. E allora sì, va bene. Andava fatto, è meglio togliersi il dente subito, no? Va bene. Giusto. Però non parte. No. No, ma che a te arriva dopo il suono sull'isola. Ci stava giusto anche un po' di silenzio, credo. Mm. Se non fosse che qualcuno parlava. Chi è che parla? Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Different Però non c'era Pasquini a tirarci giù. C'è stato qualcos'altro. Ma noi andiamo avanti. Continuiamo, ma riprendiamo, sì, recuperiamo. Ma, certo. Ma che abbiamo qualcuno al telefono, Boscaro? Sì, ma Tosi. Ma è il mio amico Diego Zuelli. È proprio lui, l'artista. L'artista Zuelli. Zuelli. Diego Zuelli, Reggio Emilia 1979, utilizza il video e la computer grafica per lavorare sulle infinite possibilità combinatorie dell'immagine e dell'animazione sintetica. Nel suo lavoro mescola logiche percettive e di significato. Paesaggi, particolari meccanismi e visioni si rallentano e si conformano in maniera apparentemente inoffensiva a un principio di allussività. Ma Tosi, mi snoccioli così bene questi concetti, quasi fossi il 47 di prima. Hai visto? quasi ce l'avessi lì scritto davanti. Comunque Zuelli è sul treno, abbiamo addirittura gli invitati esatto. Treni, cioè che e meraviglia. Perciò abbasso la musica di sottofondo per sentirlo meglio con tutti i suoi frusci d'ambiente che ci piacciono tanto. Ciao Diego Zuelli, artista di cui poco fa. Benvenuto al Coxo. Bene, grazie. Allora, con molta gioia noi ti avremo qui in compagnia nella sperimentazione di questa notiziario estetico, come lo chiamiamo? Notiziario delle notizie non di oggi, ma che ci riguardano sui temi dell'oggi. Questa dobbiamo scriverla perché poi sarà il titolo della trasmissione, va Hai bene? Visto? Da domani su www.coxospaziali.blogspot.com per scaricare questa meravigliosa puntata e piena di sorprese, ricchi premi e cotillon. 333 180 94 94 se volete anche voi intervenire con i vostri contenuti in questa puntata e con il grande Diego Zuelli qui con noi a commentare queste notizie. Che bello. Grazie grande. Non hai un jingle per la rassegna, Fedra? Tipo creatività generica può tipo. Andare. Ok, vado. Creatività generica. Cronaca nera. Alla moglie viene vietato l'uso dello smartphone per il troppo uso del social network. Lei, per tutta risposta, commette suicidio. Ci troviamo in India. Quindi devo commentarla io, Gabriele, questa cosa. Dai, il commento di Diego Zuelli, lei cosa ne pensa? Ma direi che in India, insomma, il problema degli smartphone e dei social media non è ancora quello principale, quindi insomma, forse c'era anche qualcos'altro per il suicidio, secondo me. Forse non gli piaceva tanto suo marito. E invece tu, caro Tosi, mi spieghi in che modo questa notizia attinge o è inerente al bacino del contemporaneo, della riflessione contemporanea in campo artistico. Perché se noi pensiamo che l'identità... Hai tolto gli occhiali, attenzione. Sì, è un classico gesto, Boscaro. Se noi pensiamo che l'identità virtuale non ci riguardi così tanto rispetto alla nostra identità, tra virgolette, reale, questa notizia ci dimostra che perlomeno in un caso un divieto sull'uso della nostra identità virtuale può portare all'annichilimento di una persona fino al suicidio. Già, perché il contemporaneo sul virtuale lavora un sacco. Eh sì, e soprattutto c'è da dire che non c'è più questa grande differenza tra virtuale e reale, non è più una dicotomia. Zuelli, il suo pensiero. Ma insomma, che imbarazzo. Oh, c'è una galleria, hanno fatto una nuova galleria tra Milano e Bologna. Sì, non vi sento più, mi avete chiesto. No, sì, è vero, tante persone tengono molto al modo in cui appaiono online, quindi insomma si stanno scrivendo libri e se ne parla tantissimo di questo avvicinamento tra la realtà, tra la identità virtuale e quella reale. Non lo so. Per esempio anche la tua voce adesso è virtuale. È immediata, immediata. Sì, molto, assolutamente. Tu non esisti. Non esisti, non so, qui ora con noi. Assolutamente, sempre. Sei un fantasma. Con immagini che possiamo definire virtuali. Non mi piace il termine, ma per capirci. Sicuramente se mi impedissero di esprimermi con immagini virtuali, visto che faccio tutto in computer grafica e quindi... Probabilmente domani non inaugureresti una mostra a Locale 2. No, ma suicidarmi no, però le ali tarpate le sentirei fortemente, no? Belle le ali tarpate. Ok. A proposito di ali tarpate, la seconda notizia di oggi è cronaca sociale. Qual è? Giovane ragazza finlandese tenta di entrare a Disneyland col costume ufficiale di Biancaneve. La direzione non la lascia entrare. Ah. Che peccato, anche qui bisogna suicidare. No, lei non si è suicidata. No, non si è suicidata, ma ha fatto un video su questo. Sì, ne ha fatto un pezzo d'arte, che giusto? Sì, si tratta di Pilvitacala, è un lavoro del 2009 e se vi interessa si intitola Real Snow White. La vera Biancaneve. E da domani ovviamente tutti i link per accedere agli articoli di cui parleremo li troverete su www.coxospaziale.blogspot.com. Bravissimo, io ci ho messo 2 anni per imparare a dirlo senza impapinarmi. Super W-tosi. W! È il potere della W. Ok, e adesso in maniera più specifica, più chiara, proprio papale, ci metto anche un jingle così per... Jingle. Preparati a spiegarci... Come di nuovo questa cosa, però con altre parole, scendiamo un pochino ad un livello più quotidiano, se possibile. Metto il jingle. Economia domestica. I confini nel contemporaneo non sono solo quelli delle nazioni, ma sono anche quelli dei luoghi. Quindi dell'immaginario. Quelli dell'immaginario. Ah. Un parco di divertimenti è un confine all'interno di uno stato. E quindi entrare in quel posto vestiti in un certo modo può portare al crollo delle regole di quel luogo. Per cui se questa signorina vestita da Biancaneve avesse deciso di rapportarsi con altre persone, sarebbe sembrata una della Disneyland, una di Disney. E quindi l'azienda, tra virgolette, non si sarebbe potuta permettere di avere una dipendente che non viene controllata e responsabilizzata secondo contratto. E questa è la spiegazione tecnica del perché non l'hanno fatta entrare. Esatto. Ma come, cioè qual è l'interesse alla base che giustifica il fatto che poi lei ne faccia un video e diventi un'opera d'arte? Per manifestare un linguaggio che sembra un po' nascosto, che può essere nascosto, cioè il linguaggio di un parco di divertimenti. Ok. No? quindi a ricerca, ma alla fine è la manifestazione di un linguaggio più che una ricerca, no? A voi esperti dell'arte, uh-huh, anche te Zuelli, mm, posso chiamarti W. Zuelli per favore? No, mannaggia. A te Zuelli senza W. La domanda che che vi pongo è: ma alla fine dei conti l'arte, uh-huh, non è che possa essere definita come un tema della ricerca nella comunicazione, una comunicazione più che viaggia su altri canali, su canali più sofisticati, se vogliamo? Zuelli, questa è tutta tua. Bisogna partire da lontano qui, comunque. Hai 30 secondi. Sei sul treno, ti stai avvicinando. No, insomma, l'arte è comunque una delle tante possibili espressioni umane, in senso lato. E quella che riteniamo più nobile, ma è una delle tante espressioni. Il fatto che questa persona abbia deciso di fare un video di questa esperienza, non lo so se è particolarmente né originale né significativo. Più che altro perché mi sembra, non lo so, non è particolarmente, non mi sorprende tanto il fatto che la Disney voglia controllare esattamente cosa entra e cosa esce, esattamente come controllano le grandi multinazionali i propri marchi, e quindi per averne appunto il controllo completo. Allo stesso modo anche le immagini che da quei marchi emanano vanno controllate, mi sembra il solito tipico atteggiamento, niente di nuovo e forse non degno di essere ripreso in video, forse. È uno Zuelli polemico, eh. Ma critico, perché giustamente è il suo terreno, il suo territorio, ed ha una visione più lucida di me, che sono qui senza arte, senza W. Oddio, non so se era una visione lucida la mia, eh. Lucido non è un aggettivo che usano spesso per me, anzi. Ah, davvero? Sei visionario, Zuelli? Mamma, no, insomma. Ma sono sempre più curiosa di venire a vedere che cosa allestirete per domani, perché tu stai venendo qua con uno scopo e un appuntamento ben preciso, giusto? Che stasera stasera il Tosi fa il doppio turno. Sì, anche dobbiamo recuperare gli ultimi particolari della mostra, quindi con il favore della notte. Bello, con il favore del buio. Con poca luce possiamo tarare al meglio i colori e i tre proiettori che devono interagire. Così così domani per i visitatori l'esperienza sarà meravigliosa. E visto che il tempo è un po' tiranno qui al Coxo, perché non entriamo un pochino più nello specifico di questo evento che poi menzioneremo in corsa più tardi e che da domani su www.coxospaziale.blogspot.com potrete trovare il link per accedere a informazioni più specifiche, ma che comunque inaugurerà domani alle 18:30 in via Azzo Gardino 12C, in uno spazio che si chiama Locale 2. Il progetto di Diego Zuelli si intitola Non essere sicuri non è vero, e si tratta di un lavoro che è tecnicamente realizzato attraverso tre proiezioni di video realizzate in computer grafica, che è il mezzo quasi esclusivo con cui Diego crea le sue opere. E domani parleremo, la riflessione che ci innesca la mostra di domani è proprio sulla realtà delle cose e sulla possibilità di utilizzo ancora di uno spazio che possa distaccarsi dal reale, che possa essere visto come distaccato dal reale per la ricerca che sia appunto sul pensiero e non con un indice su una realtà attuale e di cronaca, appunto, differentemente dalla nostra rassegna stampa, appunto. Zuelli? Sì, beh, tu hai volato alto con la tua descrizione. A noi del Coxo ci piace più terra terra. Ma no, è sicuramente una descrizione puntuale del lavoro, ma a me piacerebbe parlare un minutino dell'origine del lavoro, che è nato non come esigenza ma come volontà, quella di utilizzare tanto uno spazio un po' particolare e poi i materiali che già erano a disposizione dello spazio, quindi questi tre proiettori assolutamente sbagliati e differenti l'uno dall'altro, quindi che poco si prestavano a essere messi insieme e a lavorare all'unisono, perché per differenze di formato, colore, luminosità erano molto, come dire, diversi. Beh, insomma, quando si trovano queste caratteristiche è bello lavorarci sopra. E quindi questi tre proiettori con tre note assolutamente diverse ho fatto in modo di farli funzionare, intersecare e, come dire, dare vita a qualcosa di non simile alle solite videoproiezioni, almeno che ho fatto in passato, e neanche a quelle che si vedono di solito. Sicuramente non c'è un'immagine rettangolare proiettata su un muro. Interessante, Boscaro. Ma non è che ci mandi per il blog del Cox qualche foto rubata dalle prove questa sera? Un qualche anticipazione? Potrebbe essere. Dai, facciamo lo scoop. Non chiare, perché altrimenti poi non venite. No, vabbè, questo non è cioè, mi permetto di contraddirla, artista Zuelli, perché in realtà stare dentro un'installazione, fruire lo spazio, è proprio al centro di questa operazione, quindi una foto non può che essere un mero riflesso dell'esperienza. Rimanendo sulla polemica, tanta gente oggi si trova a proprio agio a guardare le mostre sulle foto di Facebook, quindi insomma, proprio per scoraggiare l'abitudine che ormai impera o impera. O Imperia anche. Imperia. Le mostre di Imperia sono state colpite. Non ho mai visto una mostra Imperia. Dobbiamo assolutamente cercare che mostre fanno a Imperia. Sì, varrebbe la pena provarci. Allora, ragazzi, ci sono ancora una trentina di secondi e possiamo salutarci, utilizzarli per salutare Diego e dirgli arriva presto, lavora sodo e domani tutti a fruire e non essere sicuri non è vero. Ho detto bene che sono diventando sempre più dislessica. Bravissima, Boscaro. Ho detto Alessia, erano un po' scibilanti. Ma non stroppo. Beh, caro Diego Zuelli, ti ringrazio un sacco per essere stato con noi nella 125esima puntata di Coxo Spaziale. Grazie a voi. E ci vediamo sicuramente domani. A domani, vi aspetto. Ciao Diego, a dopo. Ciao. E noi proseguiamo con un gingolino e con la nostra rubrica i due minuti di Lolli, non vediamo l'ora, e poi la magica pubblicità di Radio Città Fujiko nella fascia delle 7:30. Consigli per gli acquisti. Oh yeah. Harold from outer space. I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Dispiacermi al contrario, invece sì. Tu pinto però il mondo è nero, il mondo è lungo, pinto tu. Tu pinto però il mondo è nero, il mondo è lungo, pinto tu. Sembra di venire dei pesci dentro. Sì. Il pesce tra le mani del mago Chieti. Caro Franco. Io personalmente non lo so fare. Fatti venire dei pesci dentro. In città lei si sente sicura di girare poi per la città magari da sola la sera? Fatti venire dei pesci dentro. Thank you. treno, complimenti. C'è quel tale James West che ha un treno. Già finito? Cozzo Pasquini. Sei celiaco ma non vuoi rinunciare a qualità e gusto? Vorresti un negozio che ti riserva la giusta attenzione? Vieni da Lari Gluten Free, in via Firenze 8H, quartiere Savena. Troverai tutti i prodotti di cui hai bisogno, con una vastissima gamma di marche specializzate negli alimenti senza glutine. Anche prodotti a basso costo. Lari Gluten Free accetta i buoni ausl per celiaci. Per info 342-22702. Ehi, dammi un po' un consiglio. Volevo invitare a cena una tipa molto carina in un posto giusto. Hai qualche idea? Veramente ne ho due. Se vuoi fare una cenetta a base di carne cucinata divinamente, portala a Red Brick. Il posto è caldo e accogliente. Hanno birre artigianali e anche un ricco menù veg. Già mi piace. Oppure? Oppure sorprendila e portala a fare un brunch. La domenica dalle 11 del mattino, pancake con sciroppo d'acero, vellutate, uova con bacon. Una colazione unica. Ottima idea. E dove? Sempre a Red Brick, in via Frassinago 2C, telefono 051 580 950. E tutta la settimana sono aperti anche per pranzo. Allora faccio così, stasera la porto a Red Brick e domattina pure. Gracias. Grazie. Grazie al vostro appoggio, la Scuola di Lingue Associazione Culturale Italo-Spagnola La Regenta, dopo soli 5 anni, si è spostata in una nuova sede più grande e confortevole, in via San Vitale 38. Dal 10 gennaio ripartono le nostre attività. Corsi di spagnolo per tutti i livelli, corsi di preparazione DELE e di preparazione all'Erasmus, corsi di inglese e di italiano per stranieri. E continuano i già fermati appuntamenti culturali. Sostienici con la tessera associativa annuale ed entrerai gratis a tutti gli eventi. Per informazioni ed iscrizioni, laregenta.it o telefona allo 051 0972 760. Ricominciano i nuovi corsi della Regenta, o se speramos numerosos. Al pub Birreria La Locanda trovi 10 tipi diversi di birre alla spina e puoi gustare pizze, panini e crostini. Inoltre, giochi di società, maxi schermo e tutti i posticipi del campionato di calcio di Serie A. Pub Birreria La Locanda, in via Treves 19, a Bologna, zona stadio. Cucina aperta fino a tarda notte. Stai ascoltando Coxo Spaziali. We'll be right back. dancing. Eccoci qua dopo i 9.9 con Mr. Sun. Bentornati radioascoltatori. Ma allora, forse è la voce della rubrica che c'è adesso, ti stai entrando nel personaggio che legge le menzioni. E vai, che te lo sei ricordato anche questa volta, grande, sei il più meraviglioso e mega galattico co-conduttore mensile del 2016. W. E allora io vado. Vada. L'angolo della menzione. Domenica 17 alle ore 16.30, Control Art Lab Playground, un workshop all'Atelier C. Anche quest'anno il C dedica un programma speciale per i bambini dai 4 agli 11 anni. Mentre mamma e papà si godono una pausa pomeridiana, nella caffetteria del C i bambini giocano con suoni, immagini, luci e video, iniziando ad approcciarsi in maniera ludica ai dispositivi digitali per lo sviluppo della creatività e dell'espressione artistica. E io, che questa cosa secondo me è molto, molto vicina ai temi del coxo, sono andata a bussare alla porta del collettivo Ateliersi per chiedere un pochino di più. E adesso qui con noi in linea, abbasso subito la musica di sottofondo che confligge con la telefonica, la direttrice artistica del collettivo Ateliersi, Fiorenza Menni. Ciao Fiorenza. Ciao a tutti. Ciao, benvenuta e grazie per essere qui con noi alla 125esima puntata di Coxo Spaziale. Coxo Spaziale. È un vero onore questa menzione, questa presentazione, l'entusiasmo e quant'altro. Eh beh, queste attività lo meritano. Alla fine, poi anche il titolo, secondo me, è uno spettacolo già di per sé. Mi fa immaginare ed essere curiosa, ma che cosa gli fate fare a sti bambini? Allora, dunque, guarda, l'idea parte da... Allora, insieme con me è direttore artistico Andrea Mochi Sismondi e insieme con me è padre di un bambino. Ah. E girando in tante città abbiamo sempre goduto come ospiti nelle città in Italia, ma anche e soprattutto fuori dall'Italia, di queste situazioni in cui potevamo andare in luoghi dove noi potevamo riposare, rilassare, leggere, stare, e il nostro bambino poteva approfondire i più svariati temi, accolto appunto da laboratori, diciamo, tra i più immaginifici e fantasiosi. Sulla base di questo ci siamo detti che sarebbe stato molto bello poter dare la stessa opportunità a delle famiglie. Essendo l'atelier sì, in centro a Bologna, la domenica pomeriggio ci piaceva l'idea che appunto di poter accogliere queste famiglie con questi bambini in una situazione ludica, ma al tempo stesso inerente a quello che comunque sono le nostre attività, che sono artistiche, creative, vicino comunque ai nuovi media, eccetera eccetera. E volevamo farlo in maniera gratuita perché secondo noi è una punta di civiltà questa dell'accoglienza alle famiglie, e quindi abbiamo coinvolto la Fondazione del Monte, la quale ci ha permesso di fare questo progetto in forma gratuita. E questo l'idea, l'idea rispetto al come diciamo la modalità con la quale abbiamo scelto e con la quale abbiamo costruito insieme a quelli che chiamiamo i docenti, ma in realtà noi li chiamiamo i fratelli maggiori. Ah, bello. È stata proprio quella di non porsi come degli insegnanti. I bambini non faranno lavoretti, i bambini non porteranno a casa necessariamente qualche oggettuccio da poi, non so, che poi dopo la mamma entra in crisi perché non sa dove sistemarlo, eccetera. Ma è proprio quello di quella qualità che si hanno, che si ha a volte con i fratelli maggiori, i quali smanettano, stanno sopra le loro cose, sopra i loro strumenti, e il fratello minore gli sta intorno, e a volte magicamente il fratello maggiore accoglie il fratello minore e lì in realtà si passano veramente delle competenze in una maniera speciale. Vogliamo... Quindi la logica con la quale questi adulti sapienti e con competenze, e è questa la maniera con la quale staranno con i piccolini, con i ragazzini. Ma l'immagine del fratello maggiore è fenomenale. Vogliamo un pochino vedere anche chi sono questi fratelli maggiori e che competenze ci portano? Quasi quasi vorrei avere un figlio anch'io. Sì, infatti, se vuoi, Petra, sarai il nostro gradito ospite, ovviamente. Diego Segatto, che è un architetto, e lui lavorerà con i bambini sulle forme, quindi sugli oggetti, su come gli oggetti possono accostarsi, su come possono a loro volta, con le loro forme accostati, darne altre. Poi il mondo sonoro, quindi un lavoro sulla musica, un lavoro sulla costruzione di piccoli synth con Bartolomeo. Poi Linda Rigotti invece approfondirà il lavoro sulle immagini in movimento, e Giacomo Parmigiani del collettivo Live Lab lavorerà sulla matematica. Ma dici che se mi metto un po' dei vestitini mi scambiano per una sorellina minore, posso venire anch'io a curiosare? Puoi venire anche tu. Grazie. Passo per la figlia di W. Tosi. Cosa non si in fa per togliersi gli anni? Loro si alterneranno, perché iniziamo domenica prossima, il 17, e il progetto andrà avanti fino al 24 di aprile, e le docenze, diciamo i fratelli maggiori, si alternano, non è che c'è un ciclo di 4 poi un altro, eccetera. Ogni domenica ci sarà. Noi consigliamo pur essendo gratuito, consigliamo la prenotazione, perché domenica è già tutto pieno. Okay. E quindi consigliamo ai bambini, alle famiglie di prenotarsi, perché comunque abbiamo una capienza, ahimè, limitata. O ci organizziamo e raddoppiamo, triplichiamo, oppure per il momento purtroppo dobbiamo chiedere di assolutamente, insomma, di iscriversi per poter partecipare. E da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, cavoli, mi sono impappinata adesso perché dice troppo bene tu, Tosi, e potrete trovare i link per accedere alle pagine di Atelier C e iscriversi, avere informazioni anche più specifiche sulla programmazione e le date. Fiorenza, io ti ringrazio tantissimo per la tua partecipazione, e magari ci risentiamo anche con, certo, i fratelli maggiori, così ci raccontano un po' in corso d'opera come va. Assolutamente, chissà, magari anche con un partecipante, un bambino, magari anche. Bellissimo, sì. Potrebbe essere. Grazie mille, ciao, allora. Fiorenza, venite a trovare, vi aspettiamo. Subito. Siamo già lì. Ciao Fiorenza, grazie. Grazie a voi, ciao. Ciao. Hai sentito che bella menzione che ci è venuta? Ma che bravi che sono quelli degli Atelier C. Sì, vero? Complimenti vivissimi. Aspetta, quelli degli Atelier C, del collettivo, che lavorano all'Atelier C. Ma che brava che sei. Ho studiato, mi sono fatta fare le ripetizioni dalla direttrice artistica in persona. Mica poco. Però noi abbiamo questo compito istituzionale coxico da portare avanti, perciò ti rimetto il gingolino, sì, così forza. Mi rientri in ritmo e regime. Grazie. Martedì 19, dalle 9 del mattino, la maglietta gialla di Karin Andersen at forte.it. La collezione di t-shirt d'autore prodotte da Forte con 2e.it si arricchirà di una maglietta gialla firmata da Karin Andersen. In linea con la politica di Forte, parte del ricavato di ciascuna maglietta d'autore sarà devoluto a progetti di solidarietà. Ah, mi sono distratta io. Il jingle. Scusami lo stacchetto, che stavo pensando a questa insistenza sul giallo. E siccome il giallo tornerà anche nella prossima menzione, ma c'è tutta una cosa, allora intanto mando un nuovo nero. Vale a dire? Beccate Parnedi. Ma che scuro è il nuovo nero. Leopardo, col nero. Ma che buono il nuovo nero. Ma che buono il nuovo nero. Ma che buono il nuovo nero. Nuovo nero per davvero. Ma che buono il nuovo nero. Ma che buono il nuovo nero. Ma che buono il nuovo nero. Ma che buono il nuovo nero. Ma si mangia il nuovo nero. Ma si mangia il nuovo nero. Ma si mangia il nuovo nero. Ma si mangia il nuovo nero. Ma si mangia il nuovo nero. E lo spieghi il nuovo nero. Ma si mangia il nuovo nero. Ma si mangia il nuovo nero. C'è questo pubblico che ha un impermeabile giallo che è praticamente il nuovo nero. Ci piace Farnedi, eh? Ci piace Farnedi. Sai che è anche venuto in trasmissione? Sai che jingle li ha fatti lui insieme anche a Lolli? Ma che meraviglia. E insieme anche a qualcun altro che adesso come adesso non mi ricordo, però ricominciamo a... Scusa che mi sono un attimo... Non te lo ricordi o non lo vuoi dire? L'angolo della menzione. Ti ha censurato. Martedì 19 alle ore 21:30... I martedì in giallo. Vedi che giallo ritorna? Caffè. Eccolo qua. Al Bravo Caffè, i martedì in giallo. Che cos'è? Secondo appuntamento con il format concerto di Roberta Giallo. L'artista presenterà e si esibirà portando sul palco sempre ospiti diversi che, oltre a esibirsi in live proponendo i loro progetti musicali, si racconteranno attraverso la mini giallo intervista Free Entry. Vabbè. Tutto gratis. Yeah! E c'è da dire assolutamente che lo sai che Roberta Giallo è stata la prima co-conduttrice occasionale. Quindi, e la prima a mettersi in W. La prima W. Yeah, la primissima ed è anche l'autrice del brano in esclusiva che ho rimesso lì, che è il mio brano preferito del 2015, Fuligine. Yeah, e adesso la Roberta Giallo ce l'abbiamo qui senza W, ma con grandi novità. Yeah. Ci sta lo stacco. Stacco, allora, stacco. Non è partito. Correggo una piccola cosa. È il primo appuntamento con il martedì giallo. Forse ho sentito secondo, ma comunque, forse. Perché era il primo e il terzo martedì, e quindi esatto, il primo e terzo martedì del mese a partire dal 19 gennaio fino al 17 maggio. Quindi Bologna ne avrà per un bel po'. C'è giustamente Gabriele Tosi che mi sta dicendo: è colpa tua. Dicendo che è colpa di Stefano Pasquini. No, ma poi non esistono colpe, figurati. Però mea culpa. Mi andava di specificare che proprio la prima, primissima, più prima non c'è. La super inaugurazione. Che infatti il primo martedì del mese di gennaio era il 2 gennaio, che è subito dopo Capodanno, effettivamente. Esatto. Vabbè, scusami, una gaffe coxica, ma. No, va bene. Che bravi quelli del coxo. Va bene, vado faccia al muro, riprendo le tradizioni antiche. Roberta, allora, quindi sì. Il primissimo episodio dei martedì in giallo. Vi illustro la situazione. Grazie. Allora, intanto anticipo che questo sabato 16 alle 12:30 si terrà una conferenza stampa sempre al Bravo Caffè, in cui insomma entrerò nei dettagli di questa rassegna che nasce dalla volontà di creare a Bologna uno spazio in cui la musica inedita, quella più di nicchia, quella meno conosciuta, ma non solo, perché ci saranno anche ospiti che magari hanno fatto un Sanremo, vinto premi importanti, possano esibirsi e presentare i loro progetti inediti da tutta Italia. Quindi ringraziando Max Cattoli del Bravo Caffè, che insomma ha reso disponibile il proprio locale importante per ospitare questa rassegna, io come dire sono andata un po' a spulciarmi delle proposte e tante altre sono arrivate, insomma. Quindi l'obiettivo è, come dire, creare una continuità di ascoltatori interessati a progetti inediti. Avremo cantautori, band, e un po' insomma si spazia con il genere. Però si costruisce come un format concerto. Qual è il... Mi piace chiamarlo format perché non è il solito concerto in cui si inizia a suonare e si finisce, nel senso l'idea che ho in mente è di raccontare le persone attraverso la musica e quindi in realtà intervisterò i protagonisti delle serate, insomma, quindi c'è già l'intervista che poi insomma verrà ripresa e troveremo il modo di creare insomma un piccolo format anche mediatico, insomma poter pubblicare l'intervista insieme a parti dell'esibizione. Ovviamente non mancherò anche io di esibirmi, sto terminando la sigla in questi giorni perché ho creato una sigla anche per questo io adoro evento. Le sigle della Giallo, le adoro. Però questa solo piane voi al momento, Federe, quindi ma io l'adoro già da adesso. Comunque sì, martedì in Giallo e quindi insomma sarà veramente divertente e non solo, però sì, ho voluto come dire assecondare l'idea di creare un format perché non si tratta solo di un concerto ma è un tutt'uno, insomma è qualcosa di posso dire di omogeneo, ma voglio dare appunto la possibilità a questi artisti di raccontarsi, insomma di parlare del proprio percorso e inoltre c'è il vantaggio che risolvi una serata del palinsesto settimanale delle attività ludico-culturali, esatto, bolognese, perché il martedì d'ora in poi Bravo Caffè alle 9:30 è martedì in Giallo. Ovviamente se tu Federa, se ci sei ti voglio vedere, tanto come avevo detto è free entry, anzi qualcuno mi corregge, free entrance è uguale, insomma quindi io vi aspetto numerosi anche a colui che sostituisce W. Pasquini, si è invitato anche qui. Grazie Roberto. Il Valdo Gabriele Tosi. E ditelo soprattutto, perché come dire il destino della musica è affidato, della musica emergente a Bologna è affidata a questa serata. Quindi wow. Non possiamo fare il locale pieno. Scusa, mi è partito lo stacchetto, scusami Roberta. Ma no, magari era un freno, nel senso poi tu la sai lunga di tempi coccici. Però non posso non dire chi saranno gli ospiti a questo punto. No. Lista. Gli ospiti, posso dirlo? Lo dici? Mi fate un di meraviglia che cresce la tensione. E vediamo, non ce l'ho il rullo di tamburi. Aspetta. Allora, il primo ospite sarà Nabel, cantautore pugliese, poco trasferitosi a Bologna, giovanissimo, mi pare abbia, non so, 20-22 anni, non andiamo oltre i 22 anni. E il secondo cantautore è Simone Cocciglia, un cantautore aquilano, entrambi verranno a Bologna. Insomma, quindi è vero, Bologna centro dello stivale. Sì, io vi dico, sono due cantautori che meritano assolutamente, insomma, di sbarcare anche qua e quindi, insomma, vi invito tutti a venire al Bravo Caffè martedì prossimo, ore 21:30. E noi insieme a tutti saremo là. Grandi! Grazie Roberta, non avevo dubbi, ti ringrazio per queste novità e buona conferenza stampa, ci vedremo anche a quella. Ci vedremo presto perché a breve uscirà anche il mio singolo. Scoop! Il 22 gennaio uscirà il mio nuovo singolo Start, quindi ve lo dico già, ecco. Super, 2016 parte già in Giallo, dai, diciamo così. Mi direbbero a bomba, ecco. Ciao Roberta, in bocca al lupo. Bacioni, ragazzi. Ciao, grazie. Mercoledì 20 alle ore 18, Gente di Domenica di Robert Siodmak alla Galleria de Foscherari. All'interno della mostra Berlin 1920-10 verrà proiettata l'opera prima di Robert Siodmak, Menschen am Sonntag, Gente di Domenica. La mostra, incentrata sui lavori di George Gross, è pensata da Luca Vitone come occasione di incontro tra le immagini della Berlino di Weimar e quelle della Repubblica Federale. E questa era una menzione che ci veniva da Stefano The Original W. Pasquini. The Original W, bella mostra, l'ho vista. Un po' malinconica, volutamente, però bella. Avrei avuto delle cose da chiedere anche in merito a questo tema, magari ne riparliamo la prossima settimana dopo che sarò andata a vederla anch'io, perché adesso abbiamo tempi radiofonici super strettissimissimissimi. Allora parleremo senza vocali. No, ci diciamo ciao. Ciao. Senti, ma come brano finale metto Gigi Sabani? Fine del mondo. Fine della 125esima puntata del Coxo con Gigi Sabani e senza W. Ciao Coxici. A giovedì prossimo. Sì. Sicuro. Ma sì. Sempre con W Tosi e Si Boscaro. E settimana prossima aggiornamenti sugli eventi di Arte Fiera, tutti gli eventi di Arte Fiera. Ullala. E domani invece di sicuro a Locale 2. Ciao. Ciao. Sia stato poco attento alla TV. Mi è sembrato di capire che domani arriverà Gesù. Col suo aereo personale vuol vederci tutti alle 8. Viene giù per fare il conto e qualcuno se la fa già sotto. Scappando tutti per le scale, c'è chi lo manda ad amici e parenti se peccare è normale, c'è chi prenota un prete, un signore o meglio un cardinale, voglio tutti quella raccomandazione giusta e un po' speciale. Qui si beve Placafame, due compagni buon gustai, non aveva nessun dubbio sul locale prediletto. L'ora d'aria è la mia scelta, disse svelto Placafame. Ristorante tapas bar, elegante e sopraffino, ove i piatti sono curati del servizio col sorriso. L'ora d'aria è la mia fonte, disse certo Qui si beve, ove i cocktail sono creati come il bevitore chiede. L'ora d'aria, poesie di gusti, svago e raffinatezze, in via Morgagni 9A, loradaria.bo.it. Giovedì 14 gennaio, i grandi standard della tradizione afroamericana interpretati da Davide Nicodemi al piano, Paolo Prosperini alla chitarra e Pippi Di Monte al contrabbasso. A seguire, grande jam session. 1.323.000, 1.322.000. Dai i numeri! Sto contando i secondi che mancano all'apertura della birreria Zapap in via del Pratello. Conosco benissimo il birrificio Zapap. Sulla pagina Facebook si trovano tutte le loro novità. E a fine novembre inaugurano il pub in via del Pratello 31, all'angolo con via Paradiso. Servono la loro ottima birra, ma anche chicche di altri birrifici, accompagnati da pizza al tagliere e focaccia. Inoltre fanno corsi di birrificazione e trasmettono le partite di Serie A e di Champions. Zapap Pratello e birrificio Zapap, la birra artigianale è viva! Pronto, buongiorno, come posso aiutarla? Sì, salve, buongiorno. Vorrei prenotare un'ecografia all'addome. Benissimo, c'è posto non prima di 2 mesi. A che ora la segno? Il centro di terapia ionoforetica fornisce un servizio ecografico in giornata o il giorno successivo. Chiama lo 051 3140 488 e vedrai. Oppure prenota sul sito ionoforetica.it o dall'app scaricabile sul tuo cellulare. Ionoforetica.